Abbiamo fatto una bella riuscita a questo punto. La mela variata, io me la vedo brutta, ma salviamo salvabile, salviamo salvabile, salviamo salvabile, salviamo salvabile, io non c'entro, io non c'entro, voi salvate salvabile, salvate salvabile. Ma l'altro abbiamo parcheggiato la macchina. L'abbiamo parcheggiata nel blu. Sì, davanti, sì. Facciamo in fretta. Chiedo asilo. Giovedì, giorno di talk show, giusto? Giorno di orticaria. Vabbè, capo, abbiamo capito che la tua scaletta prevede qua. Ho capito. Ci sono delle creme, delle creme cortisoniche che te le metti sopra la bollicina, non va via. Passa subito. Tutto. Allora, a proposito, non abbiamo mai parlato ancora della cosa successa già un po' di giorni fa di quei 5 bambinetti in fila sul palco di X Factor per le primarie del centro-sinistra, hai capito? Non abbiamo detto niente perché non sappiamo niente ed è meglio così. Sì, quindi... tanto a parte il tormentone su Oscar Giannetto non è scaturito niente di che. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Lo zoo comunale. Quello in cui i giornalisti e anche chi guarda le primarie tutti twittano, non fanno altro che twittare. Quindi da oggi in poi mi tocca salutarvi come Oscar Giannetto. Ma vi pare? Sì, perché mi ha chiamato Oscar Giannetto, quella che ha fatto la domanda a Renzi, tutti su Twitter, risposta come se io avessi la cosa Giannetto. Sì, Giannetto. Un mondo di Giannetti, meglio Giannetti che Giannettini, per chi ha una certa età si ricorderà. Comunque vabbè, Giannetto vi saluta, ma twittate meno, leggete più libri. Ma di infatti, ma c'è ragione. Poi la formula era brutta, lì all'X Factor. Un po' strana. Del PD. Inusuale. Tutte queste domandine innocue. Però erano domande chiare, no? Abbastanza. Vabbè, ma fin troppo, erano domande da campagna elettorale, chiarissime proprio. Certe avevano perfino la risposta incorporata. È vero, giusto, poi un minuto a testa, il cronometro, ma cos'è? Il conduttore ha detto che un paio di volte. Volte attenti a non fare un talk show, non dobbiamo finire nel talk show, cioè vuol dire che c'era la paura di presentarlo come un talk show. E sai perché? Perché il talk show, dobbiamo stamparcelo nella testa, è morto. Sì, però adesso intanto tutti invidiano a Sky questo nuovo format. Sì. Ho sentito il TG della 7 che schiumavano di invidia per il superamento del talk show, capito? Infatti erano anche... lì che no, hanno ragione. Comunque io stasera eviterò di nuovo Santoro come la peste e mi tufferò nel magico mondo di X Factor. Sign of the times, come diceva Brands. Chi? Time. Cantano benissimo. Ma c'è scritto. Stare, cambiamo la scaletta. È giusto, cambiamo la scaletta. Aspetta. Qua. Contando. Quanti cuori ci sono? Conta lì. 3. Benissimo. Ci sono 3 cuori. Quanti rettangoli ci sono? 4. Benissimo! Ci sono 4 cuori rettangoli. Quanti rettangoli ci sono? No. 4. Prova ancora. Quanti quangoli ci sono? 3. Prova ancora. Quanti ci sono? 1, 2, 3, 4 e 5. Questa è la risposta esatta. Ci sono 5. Ma ancora sono sicuro è di nuovo quel rompiballe dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra. Ma non può rispondere Drago, non... Drago, telefono Drago. Pronto? Manolito, cosa vuoi stavolta? Nada signor, nada, andiamo solo para passare il tempo Para passare il tempo è meglio che ti trovi altri sistemi. Io qui sto lavorando, mica balle, sembra, dai. Anche a me también e sto trabajando. Anche a ti también. Anche a me también, sì, signor. Ma sei un po' contagioso con sto gramlo qua che parli, sì, no, io non comprendo, signor, grammi... No, niente, nada. Ecco, adesso del tempo ne hai passato abbastanza e quindi ti salutiamo. E da bien, signor, è da muy valente. Eh? E sta prendendo la lingua di Ecuador, signor, muy valente. Valente. Valente. O balengo, mi sa più. Valengo? No, valengo non comprendo. No, no, valengo. Balengo, come valente con la B. E la viene, valengo con la V. Sì. Vabbè, ma allora ho capito, valente sta per valente. E da bien, valente, con la V, con la V. Vabbè, ma se dici valente, allora è con la B. E da bien, signor, con la V. Ma sei peggio dei cinesi con la R e la L, mi stai facendo diventare scemo. Manolito, poi per dir cosa? Sei lì con Assange, occupatene tu, qui posto non ce n'è, basta, no? Insomma. Ma il signore sta infadato. No, sono sconfortato. Infadato. E infadato, tra l'altro, è una vera parola spagnola. Cioè, enfadado, cioè arrabbiato. No, sta infadato, signor. Dolore al corazon, al braccio izquierdo, enfadado. Ma come infartato? Enfadato, arrabbiato, Manolito. Chiama l'ambulanza, siete infadato, signore. Ma che l'ambulanza la chiamo per te? Io butto giù, vabbè. Anzi, guarda, butto giù. No, butta giù, no. Ecco, buttato. Va sullo scooter cocorito. Va la cabeza triangolare. Va consegnare il manoscritto, el cocorito de Milán. Quanto le manca cocorita, va nel phone center a chiamare, e prende il dipendio d'una vita, convincer cocorita a far la puta qui a Milán. Brutto momento per i programmi TV per bambini fatti da adulti. Speriamo che non sia. No, i programmi in TV per bambini di solito sono fatti dagli adulti, condotti dagli adulti. Anche noi qui in trasmissione in radio non facciamo una trasmissione per bambini, però siamo adulti in mezzo ai bambini, lo dico io. Comunque, dopo il famoso caso di Jimmy Savile e di Gary Glitter alla BBC. Ma come, non sai niente, capa? Ma cosa c'entra Gary Glitter? Che era un cantante glam orrendo degli anni 70. Ecco, era un grande amico di questo Jimmy Savile, che era un popolarissimo personaggio televisivo inglese, morto nel 2011 a 85 anni. Era stato il primo conduttore di Top of the Pops negli anni 60 e poi si era specializzato in programmi per bambini. E sai perché? Perché? Perché era pedofilo. Si è saputo tutto solo qualche settimana fa, era già morto da un anno. E sono scoppiati grandissimi casini alla BBC. Vabbè. E Gary Glitter? Lascia stare Gary Glitter, che ne avrà per qualche anno in galera. Concentrati su Elmo adesso. Elmo, ma adesso cos'è? Anche Elmo, non lo conosci Elmo? Il personaggio, certo, di Sesame Street. Assomiglia un po' al Gabibbo, è rosso, no? È accusato di pedofilia, Elmo, ma anche lui. Ma nel senso, il pupazzo? È quasi, cioè sto parlando dell'uomo nel pupazzo, che è lì dentro dal 1984 e quindi deve essere andato un po' fuori di testa. Che non è mai uscito dal pupazzo, da 30 anni, dall'84. Vabbè, questo Kevin Clash è così, fa quello da 30 anni ormai. E cosa è successo? È stato accusato da un ragazzo, adesso adulto, però all'epoca dei fatti era minorenne. Clash dice comunque che vuole combattere la legge, ha detto I fought the law. Clash, ma the law won. Questo è molto divertente. Comunque c'è poco da ridere, Drago. Meglio a questo punto che i programmi per bambini li conducano dei bambini. Almeno non ci sono pasticci di sì, cose. Però in Italia bisogna dire siamo fortunati, perché non esistono presentatori di programmi per bambini che vanno avanti per 30 anni. All'estero sì, ed ecco i risultati. Scatta la pedofilia, capito? Perché dopo un po' parte in automatico. Sì, scatta la pedofilia. Ma cosa dici? Noi abbiamo avuto programmi per bambini condotti da gente come Fazio, Columbro, Bonolis. Però Bonolis, tutti transitori, dopo 2-3 anni andavano via. Adesso sono anni che non seguo più, però è meglio così, perché sennò poi scatta la pedofilia. Anche da noi c'è stato il mago Zurlì. Resistito in calzamaglia dal 59 fino al 2009, quindi 50 anni, giusto. E a lui non è scattato niente, quindi no, anche perché con quella calzamaglia attillata si sarebbe notato qualcosa. Mancano 29 giorni alla fine del mondo.